calmare, cacchio, a mostrare chi ha per chiari. Pensavo che te ne fosse andata a portarmi una. No, già, qua non fa, vista la situazione, qua non. Ma che organizzandosi col cambio può darsi. E qua ho fatto una commissione vicino, ho preso roba che serviva. Adesso mi stavo arrabattando con prove che devo fare, roba tecnologica, sai. Cosa devi fare, prove? Sì, roba tecnologica, sai, che però non c'entra niente con le radio. Ah, oh capretto. No, io dovevo uscire a comprare il pane perché stamattina non ce l'ho fatta, che stavo pulendo tutta la casa e quindi non ce l'ho fatta. Ma ne ho poca voglia, sinceramente. Una bella giornata oggi. C'ho dolore forte al piede, mi brucia come se ci avessi il fuoco. Boh, periodo brutto per tutti. Uno che conosco gli si è di nuovo infiammata la gamba, malamente, tutto rosso, boh, non si capisce qua. Sintomi strani che non hanno attinenza con nessuna patologia che c'ha. E secondo me è colpa del vaccino, io lo dico senza malizia. Anche per me, non avevo mai sofferto di questi bruciori, forse diciamo sopra, non sotto la pianta, sopra il piede. Ma bruciori, Marco, sembra che mi mettono l'accendino. Infatti stavo pensando che avessi il fuoco di Sant'Antonio. Purtroppo già vedo che molti che prima erano scettici, che dice no, il vaccino è un dovere morale che bisogna fare, lo fai per te, lo fai per gli altri, lo fai per i tuoi familiari, bla bla bla, adesso tutti stanno andando a denunciare perché hanno sintomi vari, patologie varie proprio fatte dopo il vaccino o in sorte dopo. Insomma, non so poi cosa ne otterranno, perché si è firmato il consenso dove tu sollevavi case farmaceutiche, sollevavi medici, sollevavi tutti da ogni responsabilità, non so cosa ci uscirà. Cosa che io dicevo, vabbè, da quando hanno iniziato a vaccinare, e tutti no, ma lo devi fare, è un obbligo, se non lo fai sei un menefreghista, pensi a te stesso, non pensi alla salute degli altri. A parte a me della salute degli altri non mi sbatte un cazzo, proprio dei familiari potrebbe darsi, ma di perfetti sconosciuti no. E adesso tutti stanno piangendo, sintomi di ogni tipo, che ne so, tipo roba autoimmune, qua di tutto, dolori, di tutto, anche sintomi ingiustificati, strani che non avevano mai avuto, no, capito già, come a te, come a tanti. A me mi sta succedendo anche che mi si infiamma l'occhio, mi brucia forte, infatti devo andare dall'oculista per forza, perché ho pensato prima che fosse un problema di occhiali, invece non è quello, perché anche la mattina quando mi alzo mi viene questo bruciore, mi si fanno gli occhi rossi e guai se ci metto l'acqua, mi brucia ancora di più, è come se avessero una congiuntivite. Eia, poi naturalmente le cause possono essere anche di altro tipo, però sto sentendo un ecatombe di gente con sintomi che non aveva, per gente che sportivi che non riescono a fare più sport perché non ce la fanno, sono fiacchi. Per non contare tutte le persone già morte di morte improvvisa, c'è gente nel fiore anche maestri di sub, gente proprio che era fisicamente perfetta, morti così da oggi a domani, puff, morti nel sonno, morti improvvisamente, dice ma anche prima, sì anche prima, non credo che fossero così tante le persone. E quindi vedi, aveva ragione anche Roberto quando ne parlava, però ti danno dell'alieno quando parli di certe cose, invece ha sempre avuto ragione lui e tanti altri. Tu non ne hai fatto vaccino? Già, ne abbiamo parlato, non ne parlo al baracchino di questa roba, ma anche se l'avessi fatto è perché sarei stato costretto, perché altrimenti non entravo in ospedale, capito? Potrebbero avermi negato l'assistenza medica se non mi vaccinavo. Ecco, mettiamola così. Ehi, avevi le porte chiuse da tutte le parti, non potevi andare a spettacolo, non potevi fare nulla. Se non avevi il vaccino non potevi fare niente, si bloccavano su tutto. Già, qua c'è stato proprio una specie di, come dicono certi, una vera e propria regime sanitario, come dire, mai vista una cosa del genere, mai vista, non mi facevano entrare in ospedale se almeno il tampone dovevo fare, capito? So che vai oggi tampone, vai dopodomani tampone, cioè. E tutti no, ma adesso così sono tutti tranquilli, chi non ha sintomi è libero di fare quello che il cazzo che faceva prima, di andarsene a pigliare l'aperitivo ai bar, capito? Però chi ci è passato con la propria salute non può passarci sopra, chissà che si ottenga qualcosa piuttosto. Comunque adesso dice che lei siamo usciti, speriamo bene. Quelle erano le prove tecniche, Gianni, poi ne inventeranno altre, adesso stanno sempre facendo articoli allarmistici, è la Marburg in arrivo dall'Africa, è un altro il virus dell'aviaria, tante altre cose stanno, cioè sembrano articoli proprio per mettere paura alla gente, perché probabilmente la popolazione deve essere tenuta sotto controllo con la paura. Una volta si usava la religione e adesso si usano le epidemie, il virus, quella roba lì. Ui. Vabbè. Adesso è finita la storia, si va a bidare tutti i lucci. Tutte balle, che il vaccino, ti vaccinavi e praticamente non ti ammalavi e non contagiavi, invece chi si è vaccinato magari ce l'ha presa 2-3 volte il Covid e poi a contagiare ha contagiato lo stesso gli altri, è un insieme in minor misura, ma questo è da vedere, questo è da vedere, tutte balle, capito? Quella prima donna che anziché fare il medico va a fare la prima donna in TV, quell'altro mezzo scemo che gira sotto scorta se non gli fanno pelle, capito? Questi dovrebbero essere i medici, tra virgolette. Quell'altro scoppiato in mimetica diceva andremo a prenderli casa per casa, ma vai fatti ricoverare. Senza andare tanto lontano, mia figlia aveva fatto tutti i vaccini, il quarto vaccino, è uscita, si è preso il coronavirus, è tornata a casa, l'ha contagiato a mio figlio, la mia ex moglie, eccetera, eccetera. Erano tutti chiusi in casa col coronavirus. E stavo andando io a fare la spesa, perché non potevano manco uscire, però li la mettevo davanti alla porta e poi me ne scappavo. E per esempio noi in famiglia nessuno di noi ha beccato niente. Niente. Io sono sempre giallo, lo sai, il vizio mio, ho sempre le dita nel naso, tocco i soldi, poi metto le dita nel naso, negli occhi, nelle orecchie, ho questa mania di stare sempre con le mani in faccia. Nonostante ciò, con il virus, il logo, probabilmente o sono immune come l'influenza, perché le influenze sono, come dire quel termine, refrattario, cioè su 100 influenze una limite mi dà un pochino infabbriciato a 37,5 e finisce tutto lì, capito? Probabilmente al coronavirus anch'io sono. Poi mascherina io me la mettevo solo se sei obbligato, tra virgolette, no? Tipo entri nel market, se non metti la mascherina non ti fanno entrare o chiamano i vigili urbani, capito? Per evitare casini me la mettevo, ma dove potevo evitare non ne mettevo. Invece vedevi gente guidare con in macchina da soli, vetri chiusi e la mascherina addosso. Ho detto che bello vivere nella paura, e che quella vita è. E se no lo contagiava la macchina poi. certo, no. Oi, a con ci siamo. Vabbè. Se stanno facendo qualche cosa per farti vivere terrorizzato. Sì, l'ho notato anch'io questa cosa, è guerra, è questo e quell'altro. Poi inconsciamente anche noi, capito, ci soffriamo, anche se non lo fai volutamente, ma inconsciamente non te ne rendi conto, però ti dà problemi. Vabbè, oddio, qualcuno si mette più paranoia di altri, però è vero, Marburg sta dilagando in Africa, e siccome arrivano gli africani fanno capire che potrebbe dilagare da noi, poi c'è sta zanzara che trasmette un'altra cosa africana, si sapeva da tempo ma adesso lo stanno caricando, ecco allora perché non, siccome vanno a punire le notizie false, vanno a chiudere i siti che davano notizie presunte false, perché non fanno lo stesso con i giornali? Perché questi articoli giornalistici allarmistici vanno anche su YouTube, non fanno che fare allarmismo, è la viaria che arriva non so da dove, è quell'altro coso che arriva non so da dove, cioè tutto adesso sembra che stia arrivando. Vabbè. E Marco, sai che cosa c'è? Che la gente certe cose è ignorante, mi ci metto anch'io a me, certe cose non sono, diciamo, non sono documentate su certe cose, quindi la massa, si vede che la massa ha ubbidito a quello che ha detto lo Stato, e io mi sono messo in mezzo alla massa lo stesso, perché anche se ero un po' scettico, la verità, ho fatto fare il vaccino prima agli altri, poi l'ho fatto io, però in ogni caso mi sono sentito quasi obbligato, capito? Anch'io per andare all'ospedale, io dovevo andare, il periodo che io ero ricoverato ha cominciato il virus, e ho fatto il tempo, potevo andare dall'ospedale, poi non so quanti ce l'erano contagiati, reparti completi, eccetera. E io dovevo andare, dopo che mi hanno operato la gamba, le visite di controllo, se no non potevo entrare, mi facevano compilare ogni volta un foglio prima di entrare all'ospedale, all'entrata c'era uno che ti faceva compilare tutti i fogli, e poi sali di sopra e facevi un altro, un casino. Sì, ma poi quei fogli alla fine, cioè, diceva se avevi avuto il coronavirus o se avevi sintomi, però se sei portatore sano non puoi saperlo, o che ce l'hai ma ancora non ti ha dato sintomi, insomma, tutto molto campato in aria, anche questa storia che non potevi uscire, cioè, o ti danno gli arresti domiciliari, quelli propri, dato dal giudice. Se no era tutto, non lo so, tutto molto aleatorio, sempre quel termine che piace a me. Poi questa storia che prima, cioè il giorno prima piangendo che quasi quelli delle volanti dovevano farsi benzina di tasca propria, e poi facevano elicotteri che seguivano sub, che nel mare, cioè in mezzo al mare dove non c'era un'anima viva, andavano a rompergli le balle perché era andato a fare il sub in mezzo al mare con nessuno intorno, con elicotteri, coso, inseguimenti, ma questi sono matti, o erano prove generali di roba più grande. Vabbè. Sì, adesso ti voglio far capire che cose parlano questi paroloni. Però mi sembrava di essere in un posto dove c'era la lebbra, non si vedeva una persona, un'anima viva e tutto l'esercito. Avete parlato in due, chi era l'altro? Forse ero io, Gianni c'ha il dito veloce, cazzettina, non è come me, io purtroppo sono ammalato e ho i riflessimenti. Mario si dice, buonasera Natalia, è che tu sei entrato a palla, usci proprio con la gamba tesa, diciamo così. Io sono entrato a gamba tesa, è che tu mi hai sovramodulato. No, è entrato con la terza gamba tesa. Infatti con la terza gamba io entro sempre. Bella. Insomma così, però già a me quello che mi fa più male non è magari sentire che gente è morta improvvisamente, magari poi si capisce il perché. Sì, può capitare un infarto ogni tanto per cause naturali, ma è quello il peggio, è che i parenti dicevano il Signore l'ha chiamato, no, il Signore l'ha chiamato, è qualcuno che ce li ha mandati, queste porcherie nettate, capito? È morta anche una ragazza che è stata con me da poco, si è fatto il vaccino e un paio di giorni dopo se n'è andata. Sì, ma purtroppo, ma la gente dimentica in fretta, mi Gianni, fra qualche anno nemmeno si ricorderanno più di quelli morti, di amici e parenti morti, altro che andrà tutto bene, sì, per qualcuno è andata molto bene, per altri niente, il nulla, che te devo dire? Fatta lì, avanti! E io non ho niente a dire sul Covid, cosa devo dire? Oh, se vogliamo, qua in famiglia, perché mi spingevano tanto a farlo? Sì, un po' ufficialmente per la mia salute, io ve lo dico a parole mie, anche se c'è qualche parolaccia, ma in realtà era per pararsi il culo i miei parenti anche, capito? Non sia che potessi portarlo in casa il virus, che poi vaccinato no, in casa il virus lo portavi ugualmente e lo contagiavi ugualmente, e anche se eri vaccinato te lo beccavi ugualmente, allora a cosa è servito? Solo che adesso è così. Aspetta, devo andare a rispondere alla sua. E quindi Natalino? E quindi dopo il terzo vaccino me lo sono beccato anch'io il Covid, dopo il terzo vaccino, ripeto, e anche quello antinfluenzale, me l'ha beccato il Covid, perché me l'ha contagiato mia moglie evidentemente, ero sempre chiuso in casa io, agli arresti, cazzo, sempre in prigione. Sì, ma anche se tu dovessi fare un vaccino e ti vengono i sintomi, quando tu vai a indagare, cioè non è che i medici ti dicono no, è il vaccino che ti ha dato la stessa reazione che avresti col Covid, diranno che hai preso il Covid. È come il vaccino influenzale, lo stesso, simula, praticamente per l'influenza dovrebbe essere il virus influenzale morto che ti iniettano e ti vengono gli stessi sintomi dell'influenza e il corpo reagisce e crea anticorpi, no? Per il coso è lo stesso, però non andranno mai a dire che quei sintomi ti li ha dato il vaccino. Ma un mese mi è durato, cara. Come? Ehi, buonasera, che è entrato, adesso lo faccio entrare. E poi, ascolta, per mamma, cioè mamma c'ha 80 anni, c'ha tutti i casini che c'ha, di salute, e qual era la preoccupazione della sua dottoressa che a malapena si è letta tutta la documentazione medica, a malapena si è letta, qual era la preoccupazione? Se però vorrei far fare alla signora il quarto vaccino, io gli ho detto, ma per cosa? Per darle il colpo di grazia, non ho capito. Avrete che è entrato, buonasera. Ciao Marco, non è fatta, a me mi è andata male al secondo, non è fatta, ciao Lu, ma come mai così basso? Ma sei in trasferta? Che senso così basso? Adesso stai pompando, prima eri 9,95, ma o dipende da me, o eri molto molto al limite, basso là. No, guarda, allora, se spengo ti devo aumentare, perché se accendo devo diminuire dall'apparato, guarda adesso, vedi un po'. Ehi, così è 9, conta che questo è tarato a 100 microvolt, quindi segnale reale dovrebbe essere 9,5. Ma sei con antenna tipo orizzontale, polarizzazione diversa, direttiva? No, aspetta, no, è a posto. No, stavolta ci avevo commutato magari all'altra radio, boh. Ma sei sicuro? 9,20 sì, qua Luca, quasi 9,30. Che strano però, è lo smitter, l'Atalino è 9,25, scarso pure. Eppure l'antenna c'è intera, l'ho vista poco fa. Ma io sono con 2 watt però. No, allora è da qua, pregatene Luca. È una cosa che io ho già notato, me l'ha fatto anche l'altra volta, questo smitter c'è, oltre è duretto e non so cosa c'ha, se tarda a salire ti fa sembrare che te ne scesa l'antenna praticamente. Guarda adesso come sono, adesso sono a manetta Marco. Sì, circa 9.30, là, il 9.30 vero qua lo fa Carlo che ha 200 metri, non so quanto sia, credo sia 200 metri al chilometro. Va bene. Vedi, c'avevo 2 watt io, infatti lo uso sempre con 2 watt. Guarda con questa radio Marco, però è strano, il baracchino io abbasso il watt per quando si doveva attaccare il lineare, però un minimo di, allora quello esce minimo 2 watt per via se attacchi dei lineari e fino a 20 di suo già, questa è l'altra radio, aspetta adesso sono 35. Sì, 9,30 spaccati lui. Conta che Natalino c'ha lo smitter a LED, ti dirò di più, che lo smitter di Natalino, non so se tu te ne sei mai accorto, ma lì c'hai 3 tacche dopo il 9, c'hai il più 10, il più 20 e il più 30, però il più 10, vabbè, si accende da sola, però il più 20 e il più 30 ti si accendono tutte e due assieme, sempre, non li hanno fatti separati, quindi chi è dopo il 9,10 e segna 9,30, ma non è una cosa affidabile. Detto, si sono fatti vedere per una tacchettina in più, l'hanno accomunata a 9,30, 9,20. Può darsi che sia così, però poco fa mi arrivava a 9,25, adesso si vede che ha un capito. Ma come fai a vederlo il 9,25? A parte che se c'hai 9,20 e 9,30, anche funzionando tutte le tacchette, come fai a capire che quello lì ti volevo chiedere. Perché non arrivava a 9.30 poco fa, arrivava su 9.20, quasi 9.30 era. Adesso invece 9.30 spaccato. E io, boh, a meno che non l'abbiano fatto più, dubito che l'abbiano, come dire, Natale, che l'abbiano esteso, cioè che li abbiano fatto tutti i segmenti funzionanti di quell'LCD. Quella è una cosa che non mi piace degli sbitter a LED, cioè è come quell'altro baracchino omologato che c'ha il 5 e c'ha il 9, no? Praticamente se sei 5 arrivi 5, se arrivi 6, 7, 8 o 9 ti segna 9, che senso ha una schifezza del genere? Infatti, questo mi sembra più preciso del tuo, capito? Perché sul puntino del 30 poco fa era, e non andava oltre Luca. Invece dopo, quando ha aumentato, è andato su 9.30, tutti i led mi ha acceso. Eia. Ah no, sbagliato, comunque ho sbagliato. Allora, quello smitter là, di quell'apparatino, c'ha il 5 e il 9, no? Allora il 7 e il 9 sono assieme, 5, 7, 9, però. Allora, se sei Santiago 5, 6, 7 e 8 ti segna sempre 5, forse anche il 9. Se sei 9 o 9 pieno, allora ti segna il 9. È una schifezza quello smitter. Ed è del 5, si chiama Mega Pro. Anche voi che ti dica, io lo vedo così. Marco, guarda con quest'altra radio, diciamo la più piccola, lì comunque questo di 7.300, con microfono suo normale, non io voglio fare connessione a 60 che mi serve per l'altra radio, guarda un po' questa. Più 20, 9 più 20. E sono, aspetta che, 20 watt. Sì, anche se questo smitter è, ti ho detto, un po' ambiguo, non... questo in particolare, non so perché una volta c'era Pino che stava facendo una prova con lineare, era fuori, tipo col camper, credo. Arrivava tipo 7, no? 6 o 7, una cosa del genere. Attacca un lineareto piccolo, quello classico da due Santiago in incremento, e non cambiava. Ho detto che strano, cioè strano sembrava lui. Poi ho preso il 3009 per confronto e mi ero accorto che cambiava e come. Quindi questo smitter, nonostante sia lancetta, è una gran cavolata. Poi ho fatto, cioè, potevano non metterne a questo punto. Vediamo se è rientrato Gianni dalla telefonata. Niente, niente, insomma tutti no che siedi, ho detto saranno tutti al mare, sugli yacht, sui panfili, sul jet privato. No, io c'ero stamattina a Platamona, c'era al mare una tavola, limpido, cazzo che non te la vedo, capito? No, stasera non ci sono andato perché sono stanco. Sì, anch'io non ho voglia, poi mi devo preparare un certo aggeggio. No, Natalia, praticamente mi devo preparare un chiamiamolo bersaglio, perché devo tarare un red dot da tre punti, senza ingrandimenti, solo red dot di quelli a tunnel con tre punti, in modo che c'hai, che ne so, i 20 metri, 30 metri e 50 metri di punto di impatto, capito? Sì, ho capito. Ho cercato di fare una foto ma non viene, cioè il cellulare non riesce a vedere correttamente i punti rossi, capito? Non ho capito perché. Oh, vabbè, ci vuole l'occhio umano in poche parole. E che vuoi che ti dica? Oh, vengo con la Glock a casa tua così vediamo se mi dà bene. Sì, la Glock, viene. Tutti armati, ciao Manuel. Anche a tutti, dai, che metto a fare da mangiare che devo andare a lavoro. Ciao Manuel. Buon pranzo allora Manuel, dai. Oh, sei uno spuntino da portare, buon lavoro per dopo, dai. Dove eravamo rimasti? Oh, vabbè, insomma, devo fare un bel po' di temperatura, però non sono riuscito perché è nata lì. Non c'è un bersaglio adatto a bloccare proietto, diciamo, non, cioè, o gli metto una piastra d'acciaio, se no faccio danno, va dietro, fa danno al muro, capito? È un casino, Sembra facile, ma non lo è. Infatti, ho qualcosa dietro, devi mettere il bersaglio, sennò è un... fai il muro a buchi. E poi sai cos'è? Allora, per tarare certe cose devi mettere il coso in morsa, lo devi tenere nella morsa. Cioè, se lo muovi è inutile, no? Fai un tiro, vedi dove è finito, puoi anche farne più di uno, ma alla fine basta uno, e poi regoli il brandeggio e l'alzo, vabbè brandeggio, già capito, quello dei cannoni, il brandeggio, e le lottari sulla croce proprio, che sia preciso. Ma te l'ho detto, col clicco della macchina ti fai la cosa per appoggiare la situazione, quel clicco che hanno le macchine, quello... come cavolo si chiama, quel clicco per alzare le gomme, con quello ce lo facevamo noi. No, se no bastava anche un tavolino di quelli pieghevoli, no, ci metti un morsetto, tanto da tenerla in asse, dai, e vedere se si riesce a tarare. Sì, una cosa non è problematica, però sai, magari lo urti, ti si sposta, devi fare tutto da capo. Infatti deve essere fermo la situazione. Guarda, ma tanti anni fa, quando mio cuginetto era piccolo, io stavo tarando la carabina, quella aria compressa, mi ero tutto immobilizzato il coso, no? Bello, in modo da tarare, arriva lui e tocca tutto e mi sposta il fucile, per poco non glielo tronco sulla schiena. Io invece ho troncato la chitarra in testa a mio fratello, perché la trovavo sempre scordata e non sapevo chi era, perché pensavo che era guasta la chitarra, invece l'ho portata a tre parti e andava sempre bene, dicevano che il manico era dritto. Una sera sono salito, cazzo, ho sentito questi suoni, ma che cazzo le suoni della chitarra mia? Ed era mio fratello che stava zappando sopra le corde. Magari ti stava girando le chiavette di registrazione delle corde. No, sempre scordata la trovavo, per forza, se non sapeva suonare. Sì, ma all'anima, cioè da scorda disaccordarla è all'anima. Cioè, posso capire se tocchi i registri, come lì si chiamano, registri, no? No, se ne scendeva, perché lui zappava proprio sopra le corde, se suonavi normale non se ne scendevano. Luca, riprendi. Dai, riprendete voi che sto ascoltando qua. Chiudo. Aspetta Luca, ho visto i video, li ho visti, ma cos'è quella spada? Si sente una specie di, sembrano due spade che, due sciabolate, due spade che si toccano, si sente questo suono strano, spesso, non te lo so definire, te lo faccio sentire. Spada al microfono. Aspetta, vediamo se è qua, perché se lo senti lo capisci, aspetta. Qua c'è la ricevo doppio, aspetta, se compare, aspetta, devo trovare il punto, niente, quando lo cerchi non lo trovi, aspetta, controlli i secondi, 22, 23, 24, 1000, lo senti, aspetta, cos'è questo rumore, sei quasi in ogni video, a un certo punto compare. No, quello è un messaggio WhatsApp che mi è arrivato. Cosa sta? Siamo a due spade che combattono, mi senti? Sì. No, credo che fosse qualcosa nella radio, qualche segnale strano ricevuto, qualche disturbo. Ogni azzocco. Perché a volte quando sto registrando magari mi arriva qualche messaggio, capito? Quello stanno facendo il CW col pad, con quella due cosi. Ho visto un video su YouTube, ci sono macchinette, cioè non te lo so nemmeno fare la voce, una cosa incredibile, devi avere un coordinamento, perché sono due cose, da una parte fa la nota singola, dall'altra ti fa le note continue, no? Cioè da una parte il punto, dall'altra la linea. Lo so. Oh, vabbè che adesso ci sono tutte queste cose che decodificano il CW, ma se andava a orecchio, oi! Molta gente va a orecchio. No, qua è... non c'è né orecchio, io leggo e boh. Più comodo. Sì, è orecchio che tu non usai il CW. È logico che leggi. Sì. Allora, vediamo, ho scritto fastest, come l'ho scritto, CW, vediamo, il campione più veloce è con pubblicità, pigliarla. Veloce. Scopri Black and White Invisible. Aspetta che appena passa la pubblicità del deodorante, ma per carità, Nivea Men. Tipo roba del genere, mi. Ma ne ho sentito forse anche più veloci. Sì, ma è un macello, è troppo veloce così. C'era il padre di Coso che riceveva e trasmetteva a 120, dimmi tu, una macchinetta. Però quello è il suo lavoro. Se c'è il decodificatore automatico è più facile, ma se ti perdi qualcosa e... a orecchio è un casino lì, ma anche a trasmettere ci vuole manico, ci vuole manico. Senti, sto dicendo, trasmetteva, riceveva 120 battiti, non lo so io. Sì. E chi ci riesce? C'è gente che lo fa per lavoro e basta. Lui era telegrafista. È andato a fare l'esame che sta ridendo. Domanda d'esame, il Titanic dove ha trasmesso quella notte lì? L'SOS del Titanic, che frequenza era? Giù, dove, nella frequenza della Marina, sicuramente. No, questo lo devi sapere, io. Questo lo so persino io, lo sapevo persino io. Quella domanda non te la faranno mai all'esame. Trasmettono a 1000 e qualche cosa, non me lo ricordo la frequenza. No, ma stiamo parlando del 1912, Natali, non di frequenze magari attuali. E l'avevo letto su, forse Wikipedia, 500 kHz, mezzo megahertz. E lì viaggia l'onda, Poi, se avevi visto il film, Natali, hai visto la sala radio? Com'era? Mi pare fosse anche tutta schermata, roba del genere. Non me lo ricordo assolutamente. Comunque a quei tempi era una cosa allucinante, una FIFA, immagina quella notte lì, Nord Atlantico, era ad aprile, quindi un'unione a freddo. Beccato l'iceberg, affondamento e nessuna nave nelle immediate vicinanze, perché quando sono arrivati era già tardi, hanno salvato giusto quelli sulle scialuppe. Mamma mia, non è come adesso, no? E te credo. Ma ci vuol doppio, Ma tu fai caso ieri sera? Ha inizio banda di ogni banda, e mi ci vuol doppio. Non so perché te lo chiedevo, Natalia. Certi gli hanno fatto domande strane per la patente, tipo che non c'entravano, non era roba in programma. Tipo la frequenza del laser rosso. La frequenza del laser rosso. Del laser, poi non so se abbiamo chiesto rosso. Io adesso non mi ricordo se ha 600 spiccioli in nanometri, se 20, se 30, magari sto sbagliando. E magari ti crepano per una cosa del genere. E stiamo parlando di tanti anni fa e non di adesso. Poi, A me mi hanno chiesto la frequenza della telefonia, del telefono. Mi hanno chiesto roba di informatica quando ho fatto l'esame scritto. Figurati. E mi hanno fatto domande losche che se non le sai, grida la canzone, si bruciano. Adesso non lo so quale tipo di domande stiano facendo, però del CW tranquillo che non te le fanno. Dei satelliti te le fanno, quelle cose lì te le possono fare. Bueno, non lo so, perché magari sono domande che non influiscono sull'esame, ma per vedere uno se ha cultura in quel campo, e se no perché fare domande, che ne so, sul laser, la lunghezza d'onda, su roba, vabbè. Anche lì dice, ma anche quella lunghezza d'onda, vabbè, grazie, però non trasmetto con laser, no? Ti fanno domande sull'accordatore, a cosa servi, cosa ti posso dire? Te ne fanno di tutte le maniere adesso. E quelle normative ti dicono addirittura cosa vuol dire QRM oppure QRN, capito? Queste cose così. Ci fanno un sacco di domande, ci sono. Infatti, col cacchio che ci sento a Cagliari, vai, anche se ne sono, non me ne sbatte un cavolo. Vabbè, ma non devi nemmeno guidare, vai in treno, che te frega, certo un po' di spesa, perché sai, il treno non è che ti porta davanti alla sede d'esame, magari devi pigliare poi un taxi, ma tentare l'ultima volta, poi decidi tu. Cosa ti volevo dire, Natalie? Hai detto qualcosa prima, sta dicendo normative, mi sfugge adesso, porca miseria. QRM e QRN, ti possono dire la differenza che c'è, ti possono dire cosa vuol dire QRM. Era roba attinente al laser, oddio, insomma, sul CQ elettronica di non so quante decenni fa c'era questo giochino da fare, no? Per chi si voleva pentare, praticamente tu potevi trasmettere con un amico da un palazzo all'altro o anche abbastanza distante, tipo centinaia di metri, forse anche di più, e dovevi fare questo circuitino di modulazione e demodulazione unito a un laser, un diodo LED che andava collimato al millimetro col tuo amico con dei piccoli telescopi o cannocchiali, forse bastava anche l'oculare di un binocolo, tu te lo collimavi e tramite la lunghezza d'onda del diodo, non era nemmeno laser, era proprio un diodo normale, e riuscivi a ricevere una forma di modulazione polifonia, dice, con una distorsione particolare, c'è una voce un po' tipo robotica, no? Non lo so, e c'è tutta la spiegazione di come fare questa roba qui, e che lì anche volendo provare all'epoca non c'era nessun amico che volesse condividere il progetto, fare prove, non gli fregava niente a nessuno. Proprio, cioè io le persone che conoscevo io consideravano questo hobby nostro, e credo anche quello radioamatoriale, come un hobby da sfigati, capito? Però loro andavano a giocare a pallone, capito? Perché quello non è da sfigati, no? Lo so, il mio dirimpettaio potrebbe starci a fare delle cose così, magari a trasmettere il CV doppio, nel senso con la luce del LED. 1, 2, e tu devi decifrare cosa dice. 3. Sì, ma quello è bello che era fonia, cioè tu modulavi con una capsula microfonica e poi ricevevi anche questo segnale, dice, con una distorsione, probabilmente sentivi una specie di roba tipo aliena, no? Però capivi la voce. Insomma, per chi si voleva pentare c'era un sacco di cosettine belle da provare, dai. Ma stiamo parlando credo degli anni 80, forse 90. Elettronica vecchio, capito? Io per esempio lo chiamo in CV doppio a quell'amico mio, lo chiamo, capito? Se vuoi te lo faccio sentire e magari mi risponde pure, mi aspetta un attimo. Magari mi risponde, mi sentito? Eia, più veloce su tutto, però devi essere come quelle macchinette sentite su YouTube. Ma io non ho il tasso. Quindi che dovrei fare secondo te? Ah, Ah, non è proprio il tasto, cosa stai usando per fare il tono? Aspetta. Vabbè. Sentito? A proposito di tasto, Natali, tu stai usando il mic normale? No, ovviamente no. No, io sto usando l'MB più 4. Col cicalino lo stavo chiamando. Me. Ah, il cicalino di test, dai, ho capito. Eiaia. Gianni non è rientrato, Luca non è rientrato. E chi era l'altro? Era... chi era? Emanuele sarà andando a lavoro, vabbè, io mi sa che provo a fare questa cosa da lì, poi qua lascio acceso, se ne abbiamo voglia, due chiacchiere dopo. Gli sbadiglio, mi è entrato il microfono in bocca. Che ragazzi. Mi tocca fare sbadigliare una gola profonda col microfono. Pucci. Capito, là è Marco. Sì. A livello di normative eri preparato ugualmente. Che ne so, se ti chiedessi, che non ne so io le normative, non saprei cosa chiedere. E quello lì mi hanno chiesto come normative, amico, RM, e laggiù tu burro la differenza, ero preparatissimo, le leggi ti chiedono, amico. Per esempio, dici, quanti watt può usare un radioamatore? E tu gli dici che devi dirgli. Ma 500 quello è, ma in tutte le bande, in tutti i modi di emissione, perché io non essendo radioattore non lo so, però ricordavo una soglia al limite comunque di 500 watt, poi vabbè, tutti loro a kilowatt quando vogliono. Lo so, massimo 500 watt deve rispondere. Che comunque sono un beh, se usi una direttiva poi non ne parliamo. Lo so, loro ti fanno domande in questo senso. Ti dicono quanto dura la licenza di radioamatore, che sarebbe l'autorizzazione generale, adesso non si chiama più licenza. Sì, poi non avevo mai capito cosa sia denominativo, cioè una cosa è devi richiedere l'autorizzazione generale dopo l'esito dell'esame e devi chiedere anche il nominativo, due cose diverse, per qualcuno tipo si dimenticava l'uno o l'altra poi era un macello. No, prima fai l'esame, se sei promosso devi aspettare che ti arrivi alla patente, poi chiedi il nominativo, una volta che c'è la patente e il nominativo, allora chiedi l'autorizzazione generale. Ecco com'è. Ma tipo qualcuno si era dimenticato qualcosa e aveva chiesto quello e non l'altro, capito? E poi era un macello. Non lo puoi chiedere, perché loro nel modulo ti dicono, vogliono sapere gli estremi della patente e gli estremi del nominativo, vogliono sapere, se no non te lo possono mandare l'autorizzazione generale, hai capito com'è il discorso? Vabbè, Fiorellino! Non rispondi, Fiorellino. Marco Briciola, Marco lì. Brigido! Natali, sta a posto, niente in ordine. Cava, tutto a posto, niente in ordine, tutto da rifare. Lui, mi ha chiamato il capo, adesso ti chiamo io fra un po', ma non è perché non so quel servizio lì, forse no. Forse mi deve mandare da un'altra parte. Cazzo, un casino hai fidato i servizi. Vabbè, meno male ti ha avvertito che non eri già partito tu. No, mi deve avvisare prima, sì, e cazzo, se no mi dovevo fare 30 km in Barosa, panuta. E magari gli si mandava 60 km di distanza. Adesso sto aspettando, mi deve dire se il servizio si fa stanotte per quel cantiere là. Non so se mi mette di riposo oppure mi manda da un'altra parte. Perché io alle 7 dovrei prendere il servizio lì. Vabbè, adesso vede, tanto sono le 6:20. Già ti chiama adesso. Ah, va, vediamo. Vai, Marco, via. Ehi. Allora, da lì, Gianni, tutti, non so chi ci è rimasto, Luca, io stacco, faccio questa, sto facendo roba qui, vediamo cosa riesco ad approntare, poi nel caso ci sentiamo dopo, ok? Per primi a tale. Andando te ne stai, Marco. Se no non riesco, dice, rimango fermo qua, non riesco a fare nulla, dai. Forse dentro dopo, ok? Se no ritenetevi salutati, tutti. Ok, va bene, grazie per le quattro chiacchiere, Marco, dai, buon proseguo. Già sono qui, io già non scappo, dai. Ciao Marco, ciao ciao. Ciao Marco, lì, ce la riascoltiamo. E che cavolo sei da Gecca che vai tu? Cazzo che vuoi se vai a... Io li cinco li ascolti qua, capo! Mamma mia che modulazione! Sei da attende! Ma cosa te intendi tu? Ma cosa te intendi tu di colpo? Vai che sembri checco, sembri! Ma cosa te ne intendi tu? Ha ragione Emanuele, c'è la voce da checca. E te, eh? Ma sembra una prostituta. Che brusa. Il sentito là, c'è anche le calze a rete. Anche la risa nelle cappadda, Emanuele. Dite che se vuoi lo porto io a battere, lo porto lì a... Questo è la prima salto. Mi hai visto là, Luca, ti sta già provando il lavoro? Mi... Ma con un po' di prima, Ri. Sì, sì. Oh, ma il tacchiaspito a me ci te li hai, Luca? Non rispondi, no. Rispondi solo quando riconveni. Ma che va il microfono in mano? Luca, il microfono in mano c'hai? No, c'è qualcosa che non va. Luca, è crollato a Santiago 6. Luca, il microfono te ne è sceso in terra. Vabbè, Marco. Luca, eri sceso a Santiago tipo 6 e mezzo. Adesso? Prima? Boh, guarda. No, adesso è basso come tipo intorno a 9, ma prima ho visto come se fossi senza antenna, con i radiali stavi uscendo. Non è un radiale. E allora senza niente, col cavo. Sei sempre col cacciavite in mano, questo Luca, mamma mia. Ma me che sta accorto, sta accorto, diciamo, cosa state dicendo male? Ma questo chi è, Luca o chi è? Manuel, stai uscendo male tu, me. Non io. Dai, ti abbassi, poi ti alzi. Come mi abbasso e mi alzo? No, non era lui, non era lui, no. Ma forse ti allontani dal microfono. Marco, così è. Boh, a me non sembrava lui. A me, ma mi ascoltate? Adesso sì. Il segnale poteva essere uguale. Io sentivo una modulazione bassa bassa, credevo fosse Luca. Anche io, basso basso ho sentito. Non sembrava neanche Emanuela, che Emanuele ci voce di radio, no? Ma sto scendo basso. No, adesso stai uscendo bene. E io la sento cadonda. No, è stato un episodio sporadico, dai. Va bene, io sono qua, sto facendo roba, già vi ascolto, ciao. Ma mi c'è niente. Luca, dovevi vedere come c'era il mare stamattina, raga. Una d'aura, limpido, limpido. Ma la gente c'è. Io dico, gatta, si bicava nei riseppi e ci mangiano. E la gente che c'era pescando. Luca, sentito, hai. Io. Cazzo ce ne ha fatto dei gas, no? Il gioco di tendi per ieri mi tendi illusori in due pezzi. Stamattina sono sceso a Plaza Mona per prendere un po' di sole. E a Vanessa ne pugliassi. Gaba gaba. Oggi era veramente bello il mare. Poi limpido, limpido. Sì, già lo so, io ero lì di fronte al coso di Fiume, alla centrale di Fiume Santo, ve lo volevo calmare. Era calmo, tutta la rotta. Ecco. Oh, a me piacerebbe andare, però sai cos'è? Cioè, non è che posso lasciare mamma tanto tempo, e per stare 2 ore, cioè, tolto il viaggio, di andare, ritorno 2 orette e non me ne faccio niente. Se io se vado, vado tutta la mattina o tutta la sera, ma non si può, a meno che non trovi il cambio. E tu quando andiamo a pescare, io e Franco, il camper vieni con noi e ti stai tutto il giorno, tutta la notte, canto dei viaggi. A che noi chiamo 2-3D fuori? Col camper è bello, cavolo. Allora, ogni tanto ci facciamo il caffè, ci facciamo da mangiare, okay, dormiamo e tutto. A usare come vi dà che bisò. Eravamo io, Franco e Pierpaolo il carabiniere, in 3 eravamo. Io. Per pescare, boh. Una volta c'avevo più hobby, poi mi rompo le scatole di tutto. Poi mi è sembrato di capire che stanno controllando anche le licenze quando vai a pescare in mare, quella gratuita, no? Però io il tagliandino mio non so nemmeno dove sia, io l'avevo fatto, però poi ogni anno se andavo a rinnovare, anni fa, mi diceva in base al decreto è stato prorogato, praticamente prorogavo all'infinito, però adesso ho perso di vista tutto. E non solo, ma se andavo al sito dove mi sono registrato, mi dicevano che non potevo richiederlo perché ero già registrato. E allora cosa devo fare? Non c'ho il tagliando, cosa devo fare? No, a me me l'hanno rinnovata, sono entrato nel sito e me l'ho rifatta, io ce l'ho valida. Accende la passione. Scade a dicembre del 2023. Oppure la capitaneria, come ha detto Gianni, andare alla capitaneria, però Torres, lo fanno lì. No, a me non mi faceva rinnovare, non so, non ho capito perché, non poi devo vedere, è tanto tempo. E comunque sia, anche rinnovando la noia, io mi devo rifare i mulinelli, e devo avere un mulinello un piccolo e uno un po' più grande. Che ho le canne ma non ho i mulinelli, capito? Li ho sbarrati, anzi no, me li hanno sbarrati tutti. E problemi ci saranno per le canne e per i mulinelli. A me me ne hanno regalato uno stamattina, ma bello veramente, che mi mancava nella bolognese, e ce l'ho messa, va giù, chissà quanti mulinelli, ne ha giù pure uno in più di chi ti manni i manni, e va, che si dà lancio. Poi c'ho quelli piccolini per le da 2005, per quelle canne che servono per i calamari, per le seppie, capito? Già ne ho mulinelli, ne ho due canne, cioè di quelle con il cavalletto per quando vai nelle zone portuali, cazzo, ma diluso veramente. Marco, qual è? Te l'ho mandato. Ehi, la sto aprendo, per adesso c'è il primo video, non c'è l'audio, non mi fa attivare, passa l'app, mi vuole far passare l'applicazione che io non ho e non metto, vediamo un altro. Ah, ti ho mandato il link per rinnovartelo. Ah, ok, l'altro, credevo fosse un video l'altro, aspetta che lo apro, che casino questa roba, allora, Facebook. Che link è? No, l'ultimo che ti ho mandato. Sono rientrato. Gianni. Qui. E dai, mi ha chiamato Stefano poco fa e mi sono assentato. Marcolino. Sì, è quello il link. Avanti, chi chiama? Me lo dai, controllo di radio. È amplificatissima. Campa, aspetta che abbasso un po'. Ok. Sto usando l'usciure. Troppo effetto ambiente, Tony, però. Troppo effetto ambiente. Ehi, vabbè. È come che uno si compra un Ferrari e cammina a 20. Tanto vale se mi piace una bicicletta. Vabbè, però il parlato lì un po'. Certe volte si fa fatica a capirlo tutto. Allora, per Luca, sì. Eccola qua. Sì, è quello dove mi ero registrato io. Dopo vedo se mi fa andare avanti con la registrazione. Ok, allora riprendete pure, dai, che continuo a fare quella roba lì. Chi è rientrato? Gianni, avanti. Sì, dai. Era al telefono, mi hanno chiamato al telefono, quindi mi sono assentato per quello. Niente, di cosa state parlando? Di pesca, Natali. Cosa già? Di pesca state parlando, io sono 2 anni e vengo. Ciao Natali. Ciao Tony. E da 2 anni, so, cosa raggio 3 anni io, vemmo. Diventano. Fino a sono cantato in Icciulubu. Stavamo parlando con Marcolino. Ma tu non sei andato con Franco in camper, mi pare, qualche volta. Ma prima di Rugovi, però, aspetta, se non puoi amici. Diventa reale. E stavamo 2 o 3 giorni, andavamo col camper, andavamo, la santa è bella a fare così. Cazzo di lusso, se c'è il camper, è un bel comodo. Allora, una volta ci ha fatto la porestella, tradita a vedere se vogliamo entrare in mari. Perché ce l'avevamo vicino vicino il camper. Mi. Ciao. Dove stavamo pescando con la scusa che io non è che potevo camminare molto, siamo andati troppo vicini col camper, ci avevano fatto spostare. Chi? Vicino qua? No, la prima, la cosa, la forestale. La cosa, da Fiume Santo, poi di mare. A Fiume Santo, proprio lì ce l'hanno fatta spostare, c'era la forestale, cazzo. Si sono avvicinati e ci hanno fatto spostare il camper, perché era troppo vicino. E lo sai che mi mangiava di umani, uia, si attaccava a queste cagate, uia. Sì, sono andato anch'io con Franco lì.